Una rapida premessa introduttiva per dire che la relazione che terrò riferirà non ai risultati definitivi della ricerca che sto facendo, ma solo quelli provvisori. Questo sia detto anche così per scusarmi in anticipo della frammentarietà, di una certa eccessiva congetturalità delle cose che dirò. Il tempo stringe, questo probabilmente gioca a mio favore, perché in effetti, visto che ci sono problemi di brevità, io perlomeno posso garantire questa brevità non avendo nulla di completo, nulla di definitivo da esporre. Vorrei partire, trattando appunto il concetto dell'opinione pubblica, partire dalla voce che Carl Biedermann compila per la terza edizione dello Staatslexikon di Rotteck e Welker, voce che appunto ha per titolo Öffentliche Meinung, edizione di cui ho una data 1856, che forse non è quella esatta, vi prego di prendere con beneficio di inventario, comunque non credo che la data corretta, posto che non sia questa, sia anche molto distante, ecco, il periodo è più o meno quello. Terza edizione, dicevo. E in questa voce Biedermann dice alcune cose importanti, in particolare dice che l'opinione pubblica è la somma, o meglio ancora, la media aritmetica dei punti di vista che sono diffusi e che sono predominanti in ogni contesto sociale a proposito di determinate questioni di carattere generale. Importante questo discorso, la media, l'opinione pubblica è l'opinione media diffusa in un contesto sociale. Subito dopo aggiunge Biedermann che l'ambito di interesse dell'opinione pubblica comprende tutte le questioni di rilevanza pubblica, per l'appunto, e tutte le questioni, potremmo dire, in generale, fatta eccezione per quelle rispetto alle quali l'unica giudice, l'unica e suprema giudice, è la convinzione individuale, la convinzione più profonda delle persone. Come dire, insomma, l'opinione pubblica giudica di tutto, tranne che di quelle cose rispetto alle quali solo la coscienza individuale è tenuta a giudicare. Ora, questa definizione, secondo me, ha diversi motivi di interesse. Primo, perché ci dice evidentemente che l'opinione pubblica è una critica costante, una critica continua, che viene svolta sugli affari pubblici e sulla loro conduzione, potremmo dire che viene svolta sull'attività politica, in senso lato. In secondo luogo ci dice che che l'opinione pubblica, che questa critica, o meglio, non ce lo dice direttamente nelle citazioni che ho fatto, ma nel contesto generale della voce di Biedermann, ci dice che questa critica ha una funzione importante nel senso, riferita ad uno Stato costituzionale, nel senso di porre un limite all'azione dello Stato, limite che non è lo stesso posto dalla legge, dal diritto positivo, è un limite più elastico. È un limite che può estendersi o restringersi a seconda dei momenti e che però, ecco, deve esistere apposta per stabilizzare continuamente il rapporto fra governanti e governati. Quindi non c'è solo la legge, ma c'è anche l'opinione pubblica, che però, ecco, attenzione, l'opinione pubblica non è inserita, non è un organo dello Stato, non è inserita nell'ordinamento formale, istituzionale formale. Rimane fuori, è un'autorità che potremmo qualificare sempre come autorità morale. Però ecco, la sua azione, il suo condizionamento, la sua funzione di controllo, e questo è il punto qualificante, la sua funzione di controllo è necessaria per il funzionamento dello Stato costituzionale, per la buona conduzione degli affari pubblici in un contesto di Stato costituzionale. C'è invece un punto sul quale Biedermann non ci informa fino in fondo, che riguarda i portatori dell'opinione pubblica. Tuttavia, il fatto che lui parli dell'opinione pubblica come di un'opinione media, l'opinione media fra quelle che sono diffuse, ci dà già una indicazione che può suggerire, ecco, una risposta. Risposta che io non faccio dire a Biedermann, non gliela voglio mettere direttamente in bocca, preferisco andarla a prendere da chi questa risposta ha formulato per davvero, pochi anni dopo, nel 62, Johann Caspar Bluntschli, compilando la voce Opinione pubblica, Öffentliche Meinung, nel suo Deutscher Staatswörterbuch, dice apertamente che l'opinione pubblica è l'opinione delle classi medie istruite e possidenti. E quanto maggiore, è l'importanza di queste classi medie nel contesto sociale, tanto maggiore è l'importanza dell'opinione pubblica nella vita di uno Stato costituzionale. Ora, aggiunge poi inoltre Bluntschli, sempre in questa stessa voce, che l'opinione pubblica a sua volta è delimitata da quella che lui chiama la Gemeindebewusstsein des Volkes, cioè la coscienza, potremmo dire, comunitaria del popolo. In altri termini, l'opinione pubblica ha sempre un fondamento, un'origine, potremmo dire, in una coscienza collettiva, ed è dunque delimitata da questa stessa coscienza collettiva. Riflette sempre, potremmo dire, un ethnos, riflette un insieme di valori culturali che sono quelli del popolo, e quindi non può mai oltrepassare questo limite. Tuttavia, ecco, secondo Bluntschli, l'opinione pubblica non è mai, non si identifica in una specie di opinione, in una sorta di opinione nazionale, di opinione collettiva, è l'opinione di una parte della nazione, cioè del ceto medio. E la sua funzione è, dice anche Bluntschli, così come diceva Biedermann, una funzione di controllo esterno rispetto allo Stato. Come dire, insomma, che ecco, potremmo formalizzarli, potremmo metterli in questi termini, l'opinione pubblica è organo della Verfassung, non è organo dello Stato. È organo della Costituzione materiale, ma non è organo dello Stato. L'opinione prevalente nel Parlamento, per esempio, ben inteso, questi autori sono autori liberali, quindi comunque riconoscono l'importanza del Parlamento e comunque riconoscono che il Parlamento è pur sempre il luogo deputato, il luogo in cui si riunisce, potremmo dire, una crème dell'opinione pubblica, in cui si riuniscono persone selezionate, elette dal pubblico, che quindi dovrebbero riflettere l'opinione pubblica. Però il fatto di essere un organo dello Stato fa sì che, per l'appunto, la maggioranza presente in Parlamento non possa essere identificata come opinione pubblica. Nel 1939, faccio un breve passo indietro, ma è importante, il giurista Karl Salomo Zacharie, nel suo volume, nel suo grosso studio, 40 Bücher vom Staate, pone proprio questa bella distinzione fra öffentliche Meinung e Mehrheitsmeinung, dicendo l'opinione pubblica è praticamente il portato della nazione nel suo complesso, l'opinione della maggioranza è invece quella che si costituisce nel Parlamento. Qual è allora la differenza? Che mentre l'opinione pubblica rimane qualche cosa di consultivo, rimane un'autorità morale con potere, con funzioni consultive, l'opinione della maggioranza invece è quella che governa. È quella che governa. Però non è la stessa cosa, insomma, c'è sempre questa idea per cui l'opinione pubblica deve essere esterna rispetto allo Stato, perché altrimenti non può svolgere la sua funzione critica, evidentemente. La critica funzionale, la critica che garantisce della buona conduzione degli affari pubblici può essere soltanto portata dall'esterno. Ed ecco perché occorre che l'opinione pubblica rimanga esterna, non ci sia mai identificazione fra opinione pubblica e opinione di maggioranza espressa nel Parlamento. Ora, questa idea della medietà dell'opinione pubblica, anche qui faccio un altro excursus, un altro brevissimo riferimento, la troviamo già esposta in Ranke, in un articolo che Ranke scrive nel 1832 e lo pubblica sul primo volume della sua Historisch-Politische Zeitschrift. L'articolo si intitola Die Theorie und die öffentliche Meinung in der Politik, articolo nel quale Ranke esprime delle opinioni molto preoccupate circa il fatto che sempre più persone, nei loro vereine, attraverso, diciamo, le loro forme associative, si occupino di cose politiche, si occupano degli affari pubblici. Preoccupazione perché? Perché, dice Ranke, in fin dei conti occorre un'enorme preparazione, un'enorme competenza per discutere di queste cose. Competenza che queste persone, non essendo dei Gelehrten, per lo più, essendo spesse volte persone dedicate ad altre attività nella vita, non possono avere. Ed è indicativo proprio questo fatto che, secondo Ranke, l'opinione pubblica, intesa proprio come quell'opinione che nasce anche qui da una sorta di media aritmetica fra le varie opinioni che maturano in questi contesti, in questi Vereine, l'opinione pubblica, in quanto opinione media, dicevo, secondo Ranke, può essere equiparata all'attività scientifica dei principianti. I portatori dell'opinione pubblica sono come i principianti nella scienza, dice, sono persone dotate di una preparazione solo elementare che permette loro di accostarsi ai problemi e agli oggetti della scienza, ma non li rende capaci di comprenderne fino in fondo la complessità e la difficoltà, ragion per cui il loro entusiasmo li porta a semplificare, a banalizzare, a dare di questi problemi una visione troppo 87, che inaugura questa linea con la sua Gemeinschaft und Gesellschaft. Assistiamo ad una specie di riscossa degli intellettuali, i quali dinanzi ad una stampa che non informa o che informa male, animati probabilmente anche da uno spirito di corpo che non è mai completamente sopito, comunque cominciano a fare una proposta concreta che verrà poi affermandosi soltanto nel Novecento, prima del Novecento, cioè quella di fondare una nuova scienza politica che sostituisca la stampa e che svolga quel compito di informazione e di educazione dell'opinione pubblica che la stampa non svolge più. Ecco, la scienza politica nuova, di cui parla per esempio Lippmann nel suo volume Public Opinion, che è del 22, di cui parla lo stesso Tönnies nel suo Critique der öffentlichen Meinung, sarebbe, se vogliamo, una specie di ritorno del mito della Gelehrte Republik, ma in funzione questa volta appunto di correzione dell'opinione pubblica e non più di illuminazione. Adesso occorre informare giustamente la massa, occorre informare giustamente il popolo, da dove prima si trattava di illuminarlo e di condurlo verso chissà quali fini. Oggi c'è una stampa che manipola, che falsifica, c'è un potere politico che si avvale di questi strumenti per garantirsi un appoggio e sviluppare praticamente la propria politica su questa base. La scienza ha il compito di intervenire e di rimettere le cose a posto, garantendo un'informazione più sicura.